Chiedimi se sono felice. Il mondo dalla prospettiva del cane, di Rosita Celentano e Angelo Vaida. Hello. La bonjour. Buona domenica, cari. Buona domenica. Allora, come va? Inizia a esserci la primavera, l'estate. Benissimo. Tu starnutisci da far schifo. Molto più che anticipata quest'anno. Quest'anno con questa voce molto impostata, dottor Vaira, perché c'ha... Allora, non perdiamo tempo. Dobbiamo assolutamente fare brava, la nostra classifica. Brava, Celentano, mi vada sul pezzo. Appunto, la classifica delle 11 cose che danno fastidio, che forse fai, che danno fastidio ai cani. Allora, prima di dirvi qual è la cosa di oggi, vi faccio un breve riassunto. Il primo punto era usare le parole più che il linguaggio del corpo. Il secondo punto era abbracciarlo forte, perché potrebbe non gradire ovviamente, o fargli pat pat sulla testa. Era il terzo punto. Il quarto punto, guardarlo fisso negli occhi. Il quinto punto, vivere senza regole. Non va bene, ovviamente, come non va bene per i bambini. Sesto punto, obbligarlo a interagire con cani che non gli piacciono. Già la parola obbligarlo. Settimo punto, portarlo fuori solo per fare pipì. Quindi una pipitina e poi si corre subito a casa. Ottavo punto, tenere il guinzaglio troppo stretto. E per chi voglia più informazioni su questi punti già trattati, no? Che fanno un parallelo tra cane ed essere umano, quindi ci siamo anche poi rivolti, ma noi in una situazione simile cosa faremmo? Però chi voglia approfondire può andare ad ascoltarsi i nostri podcast sul sito di Radio 24.it. Ma il punto 9, che è quello che trattiamo oggi, è avere un atteggiamento negativo. Negativo. Che significa? Che i cani ovviamente non avvertono solamente la tensione quando noi, per esempio, lo portiamo fuori e teniamo il guinzaglio teso e tirato. Tu mi insegni molto. Come no? Lei, intanto io non insegno a nessuno, tanto meno a lei. No, veramente. Già il nostro titolo è emblematico, che abbiamo un feeling, un debole per Aldo Giovanni e Giacomo. Allora, i cani sentono anche ovviamente la nostra di tensione, perché se vi state chiedendo perché il vostro amico a quattro zampe sia agitato, nervoso, giù di morale, bisogna provare a capire com'è stato il nostro umore nell'ultima ora, perché il cane comprende le nostre espressioni più di chiunque altro e si comporta come uno specchio. Se vi serve una ragione per rilassarvi e provare ad essere più positivi, ovviamente l'avete trovata. Allora, quindi, ricapitolando, cosa succede? Non c'è soltanto la tensione del guinzaglio, c'è anche la tensione emotiva, e i cani la percepiscono, l'assorbono, sono come delle spugne emotive. Ma del resto questo è comune a tutti gli animali sociali. Cioè, quando una persona è vicino ad una che è allegra o che è depressa o che è triste o che è tesa o che è preoccupata, assorbe questa tensione emotiva, no? E questo succede perché è giusto che succeda, siamo animali sociali, noi dobbiamo le emozioni sono contagiose, no? E la stessa cosa succede al cane. Peraltro, recentemente è stata dimostrata l'esistenza di neuroni specchio anche nel cane. Quindi sappiamo che i neuroni specchio sono quel gruppo di neuroni che prendono le emozioni e l'attività, no? Lo stato mentale altrui, e lo fanno proprio. E quello che tu mi dici, neuroni specchio, adesso forse dico una scemenza, spero di no, che dici tu prova a osservare le persone quando sono magari sedute, che ne so, alla posta, a fare le code per qualcosa. Se uno assume una posizione, piano piano tutte le altre vicine assumono la stessa. Le persone vicine tendono ad assumere le stesse posizioni. Allora, e quello è anche un meccanismo di neuroni specchio, tanto che in un'intervista a Marco Iacobone, no, che è un luminare dei neuroni specchio che ho fatto su YouTube, lui diceva sì, effettivamente per sviluppare questa capacità empatica una delle cose che si fa è che si imita l'altro, ma non è un imitare a pappagallo, è un sincronizzarsi, qualcosa che le persone fanno, e le persone, i cani fanno quando c'è armonia, quando c'è sintonia. Ora, il punto principale qual è? Che una persona dice ok, non devo avere un atteggiamento negativo, allora devo avere un atteggiamento positivo perché questo influenza. Ma il cane è mica scemo. No, ma non se è, lo forzi, non è... lo fingi, no. Sì, allora dobbiamo capire come. Perché certo. Siamo tutti, cioè, quante volte noi leggiamo sulle riviste, sulle cose, oppure ci diciamo tra di noi, no, prendila a me, devi avere un atteggiamento positivo. Però nessuno lo fa prendere. Con quella cosa del pensiero positivo che a me sta sulle balle, no? Perché il pensiero positivo è fai finta che vada tutto bene. No, bisogna sentirlo dentro, ovviamente, deve essere una cosa che come parte si fa? Da dentro. Cioè, se io come ti chiedo, Celentano, se io ti chiedo, oppure se chiediamo a Peter, no? O ad Emanuele Brignoli, anche dall'altra parte, se io chiedo come fai tu ad essere felice, tu che mi rispondi? Quanto tempo ho? Stanno pensando anche il nostro Emanuele e Peter. Allora no, aspetta, vorrei saperla, dovrei saperla. Allora, non devo avere un atteggiamento negativo. Rifammi la domanda. Come fai ad essere felice? Sai come renderti felice? Sì, come rendermi felice? Sentiamo. Faccio tutte le cose che a me piacciono. Tipo, mi metto. La prima cosa che farei io è mettere una musica che mi rallegra, che mi ricorda cose belle. Oppure mi metto a cucinare, o mi metto a mangiare patatine. Perfetto, abbiamo un elenco di cose. Esatto. Peter, tu come fai?